America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, seguito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Casa Bianca, ma vorrei partire dalla chiusura della giornata, perché è stato forse il momento più emotivo, l'incontro con la comunità italiana e italo-americana a Washington in ambasciata d'Italia. Sentiamo. Signore e signori, Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco, avete sentito l'applauso caloroso, la presentazione dell'ambasciatore d'Italia Claudio Bisognero. Devo dire è stato un incontro straordinariamente gradevole e Mattarella ha parlato delle sfide che ci sono naturalmente in Italia, ma anche dell'importanza di mantenere attraverso gli italiani che sono qui nella capitale, ma in tutta America. Pensate, solo a Washington ci sono 6.500 italiani, in tutta America ce ne sono 250.000. Sto parlando di italiani che sono emigrati recentemente o che stanno lavorando qua negli Stati Uniti d'America. Ecco, sul piano della sostanza però l'incontro centrale è stato quello di ieri mattina alla Casa Bianca, l'incontro di Mattarella con Barack Obama. Sentiamo il benvenuto di Obama. It is my pleasure to welcome President Mattarella and his delegation to the Oval Office. Ecco, benvenuto, diplomatica naturalmente, i due paesi sono alleati, sono alleati da sempre, da 60 anni percorrono la stessa strada. Poi rapidamente ci si è mossi nelle dichiarazioni congiunte su quelli che sono due temi secondo me molto forti. Ci sono molti temi naturalmente, si è parlato di immigrazione e Barack Obama ha suggerito che la NATO potesse, dice questo è un pensiero che è un embrione, prendersi delle responsabilità e lui metterebbe a disposizione degli asset americani per gestire la questione dei rifugiati. Si è parlato di Siria, si è parlato di Iraq. Ecco, su tutto però i due argomenti centrali secondo me sono uno economico e l'altro quello che riguarda la Libia, che ci riguarda più direttamente. L'emergenza economica prima di tutto, il coordinamento transatlantico, l'importanza di mantenere saldi i nervi in Europa, sia sul piano della solidità dell'Unione che su quello della flessibilità delle regole in un momento di grande fragilità congiunturale. Ecco, era inevitabile che Barack Obama e Sergio Mattarella si trovassero d'accordo sulla necessità di intraprendere azioni comuni su un fronte economico e finanziario che appare sempre più problematico. Il fatto che la borsa italiana continui a mostrare fragilità, beh, ieri insomma questa perdita del 4,7% ha colpito molto qui a Washington, in America in genere. Il fatto che lo spread sui nostri tassi rispetto a quelli del Bund tedesco sia di nuovo al rialzo, che il nostro sistema bancario resti fragile, sono tutti elementi che non sono passati inosservati a Washington, soprattutto quando c'è in visita il nostro capo di Stato e quando la necessità di coordinarsi diventa centrale. L'amministrazione Obama sa quanto sia importante la partita economica in queste settimane, sa che un'eventuale crisi finanziaria europea avrebbe un impatto diretto sull'economia USA, che tra l'altro, come sappiamo, sta già mostrando segnali di debolezza, ne abbiamo parlato in altre trasmissioni. E ci sono qui due conseguenze inaccettabili per Obama, per questo l'America si sente di intervenire, di fare da sponda a queste esigenze europee e di un paese come l'Italia. Perché? Beh, perché Obama certo non vuole chiudere il suo mandato presidenziale alla fine dell'anno con il pericolo di una nuova crisi dopo aver rimesso in piedi l'economia con una combinazione di politiche fiscali e monetarie espansive. Non solo, un indebolimento forte dell'economia, una crisi internazionale, finirà per danneggiare il Partito Democratico in un anno elettorale chiave sia per le presidenziali che per il rinnovo di un terzo del Senato e della Camera. Ecco, in questo contesto che dobbiamo immergere le dichiarazioni di Sergio Mattarella. Sentiamo. Questa stessa vicinanza, amicizia e stretta collaborazione ci consente oggi, ci consentirà in futuro di fronteggiare le sfide nuove che vi sono e quelle che vi saranno e di sconfiggere i nemici della pace, della libertà, dei diritti umani. Ecco, una cosa importante, Obama ha sottolineato come si trovi in sintonia con Mattarella, del resto lo avevo indicato qualche giorno fa facendo una presentazione di questo viaggio. Siamo tutti e due dei costituzionalisti, dice, siamo tutti e due degli studiosi e dunque quel legame intellettuale fra i due che anticipavamo si è effettivamente verificato. E dunque Obama, rivolgendosi a Mattarella, ha auspicato che sul piano economico si possa chiudere presto, come già successo per i paesi asiatici, l'accordo TTIP per il libero scambio commerciale fra Europa e Stati Uniti. Dal punto di vista americano l'accordo porterebbe un messaggio positivo su più fronti, quello per migliori prospettive di crescita grazie alla liberalizzazione commerciale, ma anche quello per un rafforzamento del tessuto istituzionale europeo a cui l'America tiene molto nel momento in cui le notizie in arrivo dall'Europa in America non sono certo rassicuranti. The bonds between Italy and the United States could not be closer. Ecco, parlando con una persona vicina alla Casa Bianca, ho avuto la lista delle preoccupazioni, dalla Gran Bretagna che si prepara al voto per restare o meno nell'Unione Europea, alla Grecia di nuovo in pericolo, a quei paesi che vogliono sospendere Schengen per contenere i flussi migratori, il rischio di terrorismo. Ecco, osserviamo un rischio di sfilacciamento che secondo la Casa Bianca in questo momento economico non aiuterebbe di certo, ma c'è qualcosa di più, perché guardando in avanti dall'America c'è un messaggio indiretto per noi: la rigidità di certe regole sull'austerità deve cedere il passo all'emergenza economica. E devo dire che questa posizione non è nuova, perché l'amministrazione incoraggiava l'Europa a prendere delle misure espansive. Ecco, il sentimento, devo dire, nella capitale americana, che il presidente del Consiglio Renzi ha fatto bene alla fine a tenere testa a certe direttive, intrusione di Bruxelles negli affari economici del nostro paese, anche perché troppo spesso le regole vengono applicate con due pesi e due misure. Per esempio, perché è stato impedito all'Italia l'utilizzo del fondo di garanzia dei depositi per aiutare le banche, quando si è chiesto di utilizzare questo fondo quando le banche erano in difficoltà, quando l'utilizzo è stato invece autorizzato per la Germania e per il Portogallo? Sto parlando naturalmente delle quattro banche da cui è partita la crisi. Ecco, da questo passaggio che poi la crisi iniziale di queste quattro banche si è avvitata coinvolgendo l'intero sistema bancario. Dunque il messaggio dall'America è: nervi saldi, ma flessibilità per evitare che ci sia una nuova crisi. Sentiamo adesso Obama sulla Libia. We discussed the joint efforts of Italy, the United States. Ecco, qui il messaggio di Obama è chiaro. Abbiamo parlato degli sforzi congiunti che stiamo affrontando anche con l'aiuto di altri paesi per aiutare la Libia a formare un governo che potrà rafforzare il territorio libico e respingere le forze dell'ISIS. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!